Bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends, microfono come sempre il vostro Jean-Luc. Ripartiamo allora con le interviste in studio del ritorno dopo 3 anni dei Radio Station che presenteranno il loro nuovo disco. Ciao ragazzi e bentornati di nuovo ai microfoni di RCS. Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Jean-Luc. Ciao. Al solito partiamo con le prime due parti in cui ascolteremo e commenteremo brani rock di formazioni storiche e non del passato, in questo caso punk power pop inglesi americane tra gli anni 70 e 80 e prima canzone degli inglesi Buzzcocks che si intitolava Even Falling in Love dal disco Love Bites del 1978. Una band con 30 e più anni di storia che continua a suonare ancora in giro in grande forma nonostante la non più verde età, che ne dite? Grande pezzo, grande band, e vorremmo vedere noi dove saremo fra 30 anni, non so. Probabilmente ci trovi al bar. Come sempre. O a pascolare le pecore in Sardegna. Eravamo rimasti al precedente disco aromatizzato Naftalina. Fateci un po' il riassunto del vostro ultimo periodo. Sì, in questi ultimi 3 anni ne abbiamo fatti di cose, relativamente tante o poche, insomma questo lo lasciamo giudicare ai nostri amici e alla gente che ci ha seguito. Sì, soprattutto io nell'ultimo periodo... Cosa hai combinato? No, niente, ho sviluppato la mia conoscenza musicale, nel senso che diciamo che ho imparato a fare il re in bar re. Scherzi a parte, comunque abbiamo fatto diverse serate, abbiamo conosciuto tanta gente... Abbiamo una cosa tra tutte, ad esempio abbiamo fatto il nostro primo videoclip nel 2008. Certo. Col Mendes e De Rosa, insomma abbiamo conosciuto tanta gente, siamo felici insomma di questo. E ora la volta degli Undertones, band nordirlandese con alla voce Fergal Sharkey, durati un paio di album e riformatisi senza il loro cantante Giorni Nostri, li riascoltiamo da disco Undertones del 1979 con Get Over You. Band con una grande energia che ha influenzato molte band di oggi, che ne dite? Beh, veramente un grandissimo pezzo, è la più bella canzone nordirlandese che abbia mai ascoltato, veramente la sto ancora ballando, guarda Giulio, guarda. Più belle delle nostre. Tullio, balla anche tu. Oh, bravo Tullio. Recentemente avete avuto modo di suonare il Sound Vito, dove sono stati ospiti anche Linea 77, noto gruppo alternativo. Com'è stata questa esperienza, dato che avete anche suonato di fronte ad un pubblico molto vasto? L'esperienza ovviamente è stata bella, perché il San Dovito negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede e siamo stati felici di farlo, felici di suonare. E per noi è stato bello anche perché abbiamo comunque anche venduto per le prime volte il nostro disco a tanta gente, siamo stati apprezzati e quindi sicuramente un'esperienza positiva, e spero che continueranno questi ragazzi del San Dovito, che colgo l'occasione per ringraziarli e salutarli, continueranno ad andare avanti negli anni a fare questa festa. Ecco. Bravi Butei. Per chiudere questa parte ci affidiamo ai Chords, formazione mod punk, autrice di un solo disco nel 1980 che ha dato loro un breve ma intenso successo. Da So Far Away del 1980 il brano Maybe Tomorrow. Noi ci risentiamo dopo la pubblicità con la seconda parte.